Ecco, noi Teresa Ludovico, che ha curato drammaturgia e regia dello spettacolo Anfitrione, che sarà al Teatro Kismet di Bari dall'8 al 17 marzo. Teresa, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Ci presenti lo spettacolo? Anfitrione, sappiamo tutti che è uno spettacolo scritto 2000 anni fa da Plauto. Da quel momento in poi sono state fatte un sacco di riscritture di autori che hanno trattato il mito di Anfitrione sia in maniera tragica a volte e anche in maniera comica. Ad un certo punto, io ho incontrato questo testo perché 8 anni fa ho messo in scena Il malato immaginario di Molière Sì. e studiando un po' tutte le opere di Molière mi è capitato appunto di approfondire anche l'Anfitrione. E sono rimasta molto incuriosita, diciamo, e presa veramente da tutti i temi portanti di questo spettacolo. Però ho detto, vabbè, è una di quelle cose che metto nel cassetto perché poi devo continuare sul malato immaginario. E 2 anni fa mi sono data la chance, perché è una cosa che faccio spesso, di incontrare in estate gruppi di giovani attori. E dovendo proporre un testo su cui lavorare, mi è tornato in mente l'Anfitrione. Allora, sono partita da quello di Plauto. Sì. Ho guardato tutte le altre bellissime, diciamo, riscritture che sono state fatte fino ai giorni nostri e ho detto, vabbè, provo anch'io a fare quello che hanno fatto i maestri, cioè cercare di prendere un testo classico, spogliarlo un po' dal contesto da cui poi è nato e cercare di ritrovare nell'attualità quel mito. Ora, ero rimasta particolarmente colpita dagli antefatti di questa storia, Sì. e cioè che Anfitrione uccide il padre di questa bella Alcmena che desidera sposare, un tale Elettrione, e poi, come se nulla fosse, la chiede in moglie. Lei tutta risposta dice va bene, ti sposo a patto però che tu vendichi i miei fratelli che sono stati uccisi da un altro capoclan. Allora tutta questa, diciamo, anche violenza, legittimazione di fare giustizia da se stessi, no? Mi ha fatto pensare, mi piaceva molto questo, diciamo, questo antefatto piuttosto cruento, no? Mi fa riportare anche alle grandi tragedie. Chi potrebbe essere oggi Anfitrione? In che ambiente ci troviamo? Mi è venuto abbastanza naturale pensare agli ambienti camorristici, alle organizzazioni criminali. Deciso questo, ho detto va bene, adesso io mi preparo una scrittura semplice, ambientando il tutto in un contesto di questo tipo, e lo propongo a questo gruppo di giovani attori. E così è partita la mia ricerca. Beh, insomma, io sono rimasta così entusiasta dal risultato, perché attori giovani, ma tutti professionisti, e quindi ognuno portava, tra l'altro è un gruppo di attori, quello che faccio spesso, di varie regioni d'Italia, perché mi piace anche molto lavorare con le lingue, no? Quelle belle forti che hanno questi bei dialetti, diciamo che hanno delle radici. In questo gruppo c'erano dei napoletani. E proprio poi l'attore che è diventato il protagonista della storia, Michele Schiano Cola, usa questo, tra l'altro un attore che lavora anche con Mimmo Borrelli, è della squadra dello Stabile di Torino, usa questo dialetto in maniera straordinaria. Insomma, è partito questo primo studio, poi l'anno scorso ne ho fatto un altro, poi ho iniziato a fare vari studi proprio su Napoli e ho deciso in qualche modo di collocare la vicenda in una tebe che è specchio dei nostri tempi, ma non è una questione di attualizzazione, quanto invece quella di trovare all'interno del nostro tempo proprio, come dire, le radici di quella storia, anche gli archetipi. E quindi questi personaggi sono diventati un po' delle figure, no? Lui, quello del camorrista, che porta il duplice aspetto, quello drammatico e quello comico. E tutta la storia porta avanti questo discorso del doppio. Insomma, all'epoca il signor Plauto ha coniato ben due parole, no? Di significato, che è sia l'anfitrione che sosia. Quindi tutto quello che significa oggi lo scippo dell'identità che questa storia ci porta, perché introduce un argomento che a me interessa molto. Cosa significa oggi perdere l'identità? E quanto ci disintegra, quanto disintegra il nostro io, disintegra la nostra personalità, perdere quell'identità che ci rende unici, secondo la nostra opinione, il nostro io, e riconoscibili dagli altri, no? Certo. Quindi noi, diciamo, viviamo nella misura in cui qualcuno ci riconosce, ma ci riconosce un ruolo, ci riconosce un potere. Beh, in questa beffa che giocano gli dèi, che cosa accade? Che Giove, vabbè, perché poi la storiella, se vogliamo, è una storiella quasi da niente, no? Sì. Giove si innamora di questa bella ragazza, di Alcmene, e decide di entrare al suo letto. Mercurio, per aiutarlo in questo gioco delle trasformazioni, gli suggerisce di assumere l'identità, quindi di indossare i panni del marito di Alcmena. E qui si apre il teatro. C'è tutto questo gioco, perché poi per la prima volta Giove, sempre ce lo riportano i racconti mitici, per la prima volta si trasforma e assume l'identità di un uomo, perché fino ad allora lui era sempre arrivato sulla terra sotto varie forme, animali, cigno, ci sono tutti i vari miti, no? Di lete, cigno, eccetera, pioggia d'oro, elementi naturali. Mai aveva impersonato, cioè aveva calato, ci si è immedesimato all'interno dell'uomo. Ecco che inizia il gioco della immedesimazione, quindi Giove ci porta al teatro e nasce la commedia. Infatti lui a un certo punto, Plauto mette proprio questa cosa qua, chiede al pubblico, dice adesso iniziate a divertirvi perché Giove stesso diventerà qualcos'altro. Quindi uno spettacolo anche dedicato molto al teatro, a che cosa significa assumere la condizione di un'altra persona, insomma, è tutto un gioco. Anche questo ci riporta al discorso del doppio, della frantumazione dell'io, dello specchio. Ecco, e torna questo argomento dello specchio, dello specchiarsi, l'altro che diventa sé, eccetera. Tutto quello, poi il gioco comico incredibile di sosia, nel momento in cui Mercurio scippa anche a lui l'identità. E anche lo spazio scenico, uno spazio scenico veramente molto sobrio, ma che aiuta a definire una drammaturgia. Spazio scenico e luci sono di Vincent Longmire, che è questo artista straordinario, insomma, che moltissimi conoscono, che io frequento da 20 anni. Tra l'altro il primo premio UBU dato proprio a Luci, qualche anno fa, lui ha ricevuto questo premio per lo spettacolo di Marco Martinelli, Stranieri, se non sbaglio. E noi abbiamo semplicemente degli specchi, però sono quelli teatrali montati su dei carrelli che vengono mossi anche dagli attori, quindi questi sette attori veramente straordinari, di cui uno è un musicista eccezionale che ha scritto le musiche ed è anche in scena come attore musicista che suona due strumenti, anche qui ritorna il tema del doppio, ed è sia questo trombone che ci porta un po' quest'aria e questi sapori, diciamo, mediterranei, un po' echi di bande, quindi ci porta l'aspetto rozzo, profano, e invece l'aspetto divino, anche se un po' cialtrone, perché in queste trasformazioni gli dèi comunque mostrano la parte più cialtrone che hanno, no? Che è anche quella nostra, insomma, quella del basso fondo, viene restituito dalla presenza di questo strumento bellissimo tibetano, che è una forma tibetana, che è lui, il radong, che lui suona. E quindi in qualche modo ci porta a questi echi che insomma ci portano in un mondo altro, una dimensione altra. E questi attori appunto per alcune situazioni portano proprio le loro lingue di provenienza, quindi c'è Elettrione per le poche battute che dici in questo calabrese molto stretto, c'è Bromia, Alcmena e Anfitrione che portano proprio la lingua napoletana, partenopea, è anche molto acida, ma nello stesso tempo molto sonora. E poi abbiamo anche l'italiano. È una figura che mette insieme tutti quanti, è questo Mercurio, che è Alessandro Lisiana, che in qualche modo è il collegamento tra la platea e il palcoscenico. Quindi c'è questo gioco anche metateatrale dove tutto il tempo lo spettatore viene messo nella condizione di trovarsi di fronte a qualcosa che viene, accade in quel momento, ma è anche annunciato, e in quello è anche la comicità, è anche svelato il gioco del teatro. Teresa, in chiusura ci dai anche i riferimenti internet per seguire il percorso di Anfitrione? Pagina che è Sì. appunto Anfitrione dei teatri di Bari di Teresa Ludovico, e lì trovate un po' tutto l'aggiornamento, oppure il sito dei teatri di Bari e Teatro Kismet. Noi siamo Benissimo. diventati un trick, quindi abbiamo il doppio sito sia come Teatro Kismet, questa è una produzione dei teatri di Bari, però la compagnia è proprio quella del Teatro Kismet di Bari. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento con Anfitrione al Teatro Kismet di Bari dall'8 al 17 marzo Dal 18, al anzi, sì, già. 18, ok. E salutiamo Teresa Ludovico che ne ha curato drammaturgia e regia. Teresa, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie.